ti ha imparato tanto tempo fa. Quando giocavi invece di andare a scuola, quanti sgridi ti prendevi da papà. Perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te, ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdere, e fa pure in me, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se finiamo nel baratro la colpa è solo dell'arbitro. Pronto, Luciano bello, perché non ti stai impegnando più? Questi ci stanno rovinando il mondiale, questi qua, dico qualcosa. Cornuti, siamo vittime dell'arbitrarietà. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità. Così palese, grande Luciano Moggi, dacci tanti orologi agli arbitri internazionali, sino a un cazzo che vinciamo i mondiali. Siamo una squadra furbissimi, fatta di gente drittissimi, e non budimo aperto, e fa pure me, perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi, e se qualcuno ci ostacola ce lo diciamo alla cupola.